Blu Radio Veneto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Bentrovati a tutti ancora da Mirko Cavallin in studio, in regia Eddie Daici. Nuovo appuntamento con il mondo della scuola che oggi si allarga al carcere, ma capiremo che è bidirezionale questo rapporto. Lo facciamo per un progetto, appunto, Scuola Carcere a Treviso, dove c'è tra l'altro l'unico carcere per minori del territorio del Nord-Est. Lo facciamo con due docenti dell'Istituto Palladio. Diamo il benvenuto al professor Paolo Pozzobon. Benvenuto. Buongiorno. E alla professoressa Nadia Moschini, benvenuta. Buongiorno, grazie. Uno come coordinatore e anche insegnante, l'altra come insegnante. Allora, Paolo, vi chiamo per nome, per praticità, okay. Un po' di storia di questo progetto. Sì, allora il progetto ormai conta più di 10 anni, è nato come conseguenza un po' logica del percorso sirio del serale istituito al Palladio e comunque pone le sue radici ancora più in là. Se pensiamo che oggi abbiamo dentro in carcere nella nostra scuola una volontaria che ci lavora lì dentro da 40 anni circa, questo è un ottimo significato di quello che significa volontariato in carcere. Ecco, noi ci siamo trovati a partire con questo progetto dal 2001 continuando un po' l'attività iniziata da questi volontari e però arrivando a istituzionalizzare un po' questo discorso. È stata stipulata una convenzione tra gli enti che erano coinvolti, quali il carcere di Santa Bona, il centro territoriale permanente Treviso 2, scuola media Coletti e l'istituto Palladio. Saluto il professor Groppo che è nostro fedele ascoltatore, visto che ha citato il CTP. Ecco, questa convenzione appunto aveva lo scopo minimo, era quello di garantire la possibilità tramite la struttura, il nostro servizio eccetera, di poter dare anche ai detenuti una possibile chance diversa da quello che è lo standard comune e quindi proporci proprio come un sistema educativo, un qualche cosa che potesse portare una formazione diversa. Ecco, io prima ho citato il carcere minorile, ovviamente questo progetto è rivolto maggiori sì. Perché lì dove evidentemente manca un titolo di studio, manca esatto, un percorso formativo. Esatto. Mentre il carcere minorile comunque il CTP opera in modo molto molto concreto e quindi anche quella comunque un'altra esperienza. Ecco. Un'altra storia, mentre la vostra storia appunto da 10 anni vi porta a fare scuola e qui coinvolgo subito Nadia Moschini che è docente. Da quanto tempo docente in carcere? Da ormai 7 anni. Quindi una certa esperienza. Una certa esperienza. Che è iniziata come? Beh, è iniziata quando da precaria ho accettato un incarico al Palladio, al serale, e mi sono trovata a dover andare ad insegnare in carcere. Come aveva accolto questa proposta? Con molta ansia, devo dire. Io avevo sentito parlare della scuola in carcere dai miei colleghi che negli anni precedenti ci avevano operato, ma non mi ero mai interessata della cosa. Quando è toccata a me, la cosa ha cominciato un po' a preoccuparmi, perché io del carcere avevo una certa idea, quella che ci facciamo guardando i film alla televisione, quindi criminali, gente senza scrupoli, e uno si chiede ma cosa ci facciamo noi, cosa vogliono questi dalla scuola? Il collega Paolo mi aveva raccontato, mi aveva spiegato, aveva cercato di tranquillizzarmi, però devo dire che la prima volta che ho messo piede in carcere io sentivo molto freddo, nonostante fosse una giornata molto calda di settembre. Per chi non è mai entrato in carcere, insomma, solo passare i cancelli fa un certo che, no? Sì, c'è tutta una serie di controlli, ci sono tanti cancelli da attraversare, ci sono le guardie che devono aprire, ci chiudono il concerto alle spalle, quindi il primo impatto è abbastanza forte. Però poi insomma l'esperienza è cominciata, è andata avanti, dicevamo adulti, ma adulti anche di una certa età. Sì, i nostri studenti vanno, diciamo, dai 18, siamo arrivati ad avere studenti anche di 60 anni, quindi che attraversano un po' tutte le età, di ogni estrazione sociale, di varie nazionalità, soprattutto molti studenti stranieri, con quindi tutte le difficoltà connesse alla poca, scarsa conoscenza della lingua italiana, perché noi insegniamo in italiano purtroppo. E appunto, e poi carcerati per la maggior parte sono stranieri. Il 70% dei detenuti del carcere di Santa Bona è straniero. Torno a Paolo Pozzobon, il livello di istruzione che voi proponete qual è? Facciamo una considerazione innanzitutto di come è organizzata la scuola in carcere. A tutti gli effetti l'offerta formativa è da suddividersi tra queste due scuole, cioè il CTP e noi Palladio. Il CTP che copre proprio l'area istituzionale scolastica, quindi dalla scuola primaria alla scuola media inferiore, e da due anni ha avuto la possibilità anche tramite proprio convenzione con noi di poter gestire anche un biennio nella sezione del giudiziario che appunto non c'era. Quindi le due offerte sono quelle un po' che servono a tutta la scuola, a tutta la formazione fino al diploma. La domanda qui è da capire anche un po' il discorso. La domanda è pressoché è maggiore verso il CTP, proprio perché serve a portare a un livello minimo di formazione e quindi a raggiungere almeno il livello della scuola media. E da noi i numeri sono certamente molto ridotti, nel senso che arriviamo a diplomare uno o due allievi non tutti gli anni. La scuola, la prima, il biennio nostro, in genere arriviamo a un numero di 10 studenti all'inizio dell'anno, per poi stabilizzarsi sull'ordine dei 5-6 allievi alla fine. Quindi non è un numero molto consistente. Certamente però troviamo che queste persone sono motivatissime, vedono effettivamente la possibilità di mirare a un qualche cosa che possa significare un futuro diverso. Bene, allora tra poco, dopo la prima pausa, vedremo anche le opportunità e le difficoltà di questo progetto di scuola in carcere. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. So spiegare. lo so spiegare. La notte fonda e la luna piena ci offrivano da dono solo l'atmosfera. Ma l'amavo e l'amo ancora, ogni dettaglio è aria che mi manca, e se sto così sarà la primavera. Ma non regge più la scusa, no, no. Solo che pensavo quanto è inutile far medicare, credere di stare bene quando invece è te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na na na na na na. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare. Solo che pensavo quanto è inutile far medicare, credere di stare bene quando inverno è te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na na na na na na. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare. E se hai voglia di lasciarti camminare. Ah, scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare, ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire? Ah, ma vuoi dirmi come questo può finire? Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, la scuola all'interno del carcere, un progetto da 10 anni attivo con l'Istituto Palladio di Treviso che forma i geometri dal titolo di geometra e lo fa anche appunto all'interno del carcere circondariale di Santa Bona. Siamo con i professori Paolo Pozzobone e Nadia Moschin che da alcuni anni appunto svolgono questo servizio volontario all'interno del carcere. Provate a descriverci l'ambiente, perché uno, come dicevamo all'inizio, si immagina quello che vede nei film del carcere. Com'è l'aula di scuola in carcere, Nadia? Allora, le prime volte che io sono entrata in carcere e facevo lezione in una ex cella che era stata adibita ad aula semplicemente con l'aggiunta di un paio di banchi, di una lavagna appesa al muro e delle sedie. Dentro quest'aula noi insegnanti venivamo rinchiusi con il cancello ad inferriata e a seconda degli agenti di guardia che erano in servizio quel giorno, a volte veramente chiusi dentro con il portoncino blindato appoggiato, e quindi diciamo molto isolati dal contesto, chiusi dentro quest'aula con i detenuti, con a volte una certa ansia non indifferente. Fortunatamente da qualche anno possiamo disporre di un piccolo polo scolastico costruito con l'aiuto dell'associazione Geometri, dei Lions Club di Treviso, del supporto della scuola Palladio, del CTP. Abbiamo quattro vere aule scolastiche, dotate anche del bagno, del corridoio, dove effettivamente ci si sente a scuola, ci si sente fuori dal carcere. Voi vi sentite più a scuola e loro si sentono meno in cella. Certamente. Ecco, anche questo aiuta, insomma, aiuta la formazione, aiuta il fare scuola, perché chiaramente puoi essere in un ambiente un po' meno così anche esteticamente adeguato, magari non aiuta a fare lezione e imparare. Questo lo abbiamo effettivamente imparato anche noi, proprio dall'esperienza. Noi ancora prima di entrare nella cella adibita a scuola nella sezione penale, facevamo le nostre lezioni nella sala colloqui parentali, quindi nella parte intermedia, e si sentiva che effettivamente era una cosa difficile da gestire proprio anche per il luogo dove eri a far scuola. Ecco, le cose sono cambiate moltissimo. Nadia prima diceva del blindo e quindi anche di questa sensazione di essere rinchiusi dentro una cella con i detenuti. Ecco, io volevo aggiungere che a tutti gli effetti la sensazione è quella, sì, però anche dall'esperienza che noi abbiamo vissuto fino all'oggi, da parte di detenuti abbiamo sempre avuto un grandissimo rispetto, cioè loro, ecco, il fatto che si fosse così isolati dentro a questo ambiente, comunque loro, prima di tutto per noi, sono sempre degli studenti e non di detenuti, e loro operano proprio come allievi, e quindi alla fine oggi per esempio ritrovarsi all'interno di queste aule tipiche proprio di una scuola, effettivamente ci si sente fuori dal carcere, ecco, tra virgolette. Ecco, coinvolgiamo anche Nadia sulla questione del rapporto appunto tra voi e i detenuti, di età diverse, di provenienze, di culture, di formazione diversa. Loro stessi hanno trovato insomma questa opportunità, quindi com'è che partecipano a questa iniziativa di formazione? Diciamo che partecipano generalmente in maniera molto, molto motivati. Molti di loro hanno un progetto ben preciso per la loro vita, quindi hanno nell'acquisizione del diploma la visione di un modo per migliorare la loro vita futura e quindi un progetto vero e proprio di vita. Per qualcuno venire a scuola rappresenta il contatto con il mondo esterno, il potersi confrontare con persone che stanno al di fuori della loro realtà, quindi della loro vita normale. Per qualcuno ancora è l'opportunità di uscire dalla cella. In cella loro passano quasi tutta la giornata con televisione accesa, con gente che fa altre cose, e quindi il fatto di venire a scuola rappresenta anche un modo di non pensare ai propri... Non dimentichiamo la questione del sovraffollamento, insomma, che anche certo. A Treviso è molto forte. Di non pensare ai propri problemi chiaramente personali, ma di avere qualche ora non di svago, tra virgolette, nel senso che trovano un modo diverso per passare il loro tempo. Uno pensa a qualcos'altro, no? E la frequenza delle lezioni, perché nella scuola normale si va tutti i giorni, ci sono gli orari, in carcere è lo stesso, come ho detto poco fa. Noi siamo a scuola a tutti gli effetti, i detenuti per noi sono allievi di scuola e anche l'orario è scandito proprio con il criterio scolastico. Abbiamo occupate quasi tutte le giornate nella settimana, hanno soltanto due mattine libere, e l'orario va dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 17:15, e tutte le discipline trovano proprio il loro sviluppo della propria didattica in ragione a quello che è l'orario scolastico. Loro accettano di buon grado anche questa sistematicità, sono puntuali alle lezioni, collaborano, alle volte si assentano per necessità interne anche del carcere, però la loro frequenza direi che la possiamo considerare ottimale. Bene, allora anticipiamo un po' la seconda pausa e poi torniamo a raccontare questa esperienza interessante all'interno del carcere con la scuola. Dal mondo della scuola. City, in the summer, in the city. stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, progetto Scuola Carcere a Treviso, al carcere circondariale di Santa Bona, con due docenti dell'Istituto Palladio, il professor Paolo Pozzobone e la professoressa Nadia Moschini. Parlavamo prima, Nadia, dell'opportunità, insomma, anche di svago, comunque di pensare a qualcos'altro per questi detenuti, di uscire dalla cella, di entrare nell'aula scolastica dopo che è stata attrezzata. Avete esperienza di chi ha completato non solo il percorso di studi ma anche ha esaurito, insomma, pagato la sua pena con lo Stato ed è tornato nella società? Sì, abbiamo esperienze da questo punto di vista molto positive. Ricordiamo uno studente a noi molto caro, perché ha seguito, uno studente straniero in questo caso, che ha seguito il percorso dalla terzo anno fino a diplomarsi, si è diplomato da noi e poi l'anno successivo è stato scarcerato, è tornato nel suo paese, ha aperto un'attività, si è sposato, continua ad essere in contatto con il professor Pozzobon e ci ha dato grandi soddisfazioni. Un altro studente che si è diplomato sempre da noi ha avuto il trasferimento al carcere di Padova, dove là sta continuando ed è iscritto all'università. Quindi sta continuando il suo percorso di studi a livello universitario. C'è anche chi si perde, però. Purtroppo sì, questo elemento a noi costa tantissimo, nel senso che comunque vedere che un progetto non riesce a chiudersi lascia un po' di amaro in bocca. Abbiamo avuto allievi che scarcerati ancora durante il nostro percorso, e il nostro percorso prevede che in continuità possano venire al nostro serale. Abbiamo visto che la loro frequenza è stata all'inizio sì, con certo impegno, però poi pian pianino si è dissolta e li abbiamo persi di vista. Chiaramente per mille motivi, chissà, io di uno di questi so che era predominante la necessità magari di trovarsi un lavoro, di impostare un po' la propria vita familiare diversamente, e quindi speriamo ancora che la scuola per lui mantenga il significato con cui è partito, ecco. Siete riusciti nel corso degli anni a coinvolgere anche altri colleghi insegnanti? Qualcuno sì, abbiamo alcuni, il triennio è seguito da colleghi volontari, il nostro triennio non ha un organico della scuola e gli studenti che continuano il percorso terza, quarta e quinta devono essere seguiti da colleghi volontari. Il professor Paolo è estremamente capace in questo di accogliere colleghi che non hanno mai avuto l'esperienza del carcere, di coinvolgerli, colleghi che rimangono entusiasti dell'esperienza e che continuano negli anni. Volevo puntualizzare anche questo aspetto. Questi colleghi sono anche nostri ex insegnanti in pensione o anche c'è qualche libero professionista, ma la maggior parte di loro è inserita in questa associazione per ricominciare, che oltre a fornirci questo eccezionale servizio di didattica, alcuni di loro hanno poi anche il compito, tra virgolette, di seguire alcuni di questi detenuti una volta usciti dal carcere e quindi nell'aiutarli nel loro reinserimento. Quindi un grazie tantissimo vero proprio a queste persone. Che rapporto c'è tra voi insegnanti di questi corsi e gli alunni invece i giovani, insomma gli adolescenti normali? Cioè c'è un racconto, una condivisione, un'esperienza, una presenza insomma degli alunni, dico del Palladio o di altre scuole? Conoscono, sanno che c'è questa cosa oppure è in un mondo parallelo? Purtroppo sì, nel senso che più di qualche volta anche da parte degli educatori del carcere si era stati pronti per partire con un progetto proprio scuola carcere e carcere scuola, cioè, da un'esperienza anche che abbiamo acquisito da Padova, quello proprio di poter motivare i nostri ragazzi della scuola normale, chiamiamola così, nel conoscere effettivamente questo ambiente, perché a tutti gli effetti, da come si parla anche con loro, la conoscenza è quella che ha qualsiasi persona che passa lungo via Santa Bona, vede il muro e sa che lì dentro ci sono detenuti, tutto si ferma lì. E invece sarebbe una cosa veramente opportuna, una cosa che formerebbe proprio anche questi ragazzi nel capire che vedi minorile oppure anche dei maggiori, c'è gente che è motivata, alle volte anche, posso dirlo senza problemi, motivata ancora di più di loro. Noi abbiamo avuto allievi lì dentro con tutto questo sistema condizionato dal carcere che hanno veramente, veramente sofferto per poter studiare, per poter andare avanti, quindi con grande impegno. Ecco, sarebbe veramente una opportunità in più da dare ai nostri ragazzi. Chissà che, come ne abbiamo parlato anche negli anni scorsi, chissà che qualcosa venga fuori prima o poi. Che cosa servirebbe in più per rendere ancora migliore il servizio della scuola? Insomma, le strutture sono già state adeguate, però sicuramente manca sempre qualcosa. Beh, sicuramente mancano degli spazi dove i detenuti possano studiare. Le celle sono sovraffollate, dicevamo prima, all'interno della cella convivono detenuti con interessi completamente diversi. Per loro studiare al di fuori delle ore scolastiche diventa un'impresa impossibile, per cui molto spesso non possono approfondire, non riescono a svolgere un minimo di esercizio. Avrebbero bisogno di qualche spazio dove potersi ritrovare tra loro, dove poter studiare più serenamente di quanto non possono fare in cella. Le celle sono sovraffollate, molto freddo, molto umido d'inverno, molto caldo d'estate, e quindi non certo il luogo ideale per affrontare lo studio. Piccolo aneddoto proprio per questo discorso: io insegno disegno. Utilizziamo delle tavolette a uso parallelografo per fare i nostri lavori. Ecco, loro purtroppo se le devono lasciare nell'aula dove noi facciamo l'attività di scuola, perché portarla dentro nella cella significa rubare spazio a qualcun altro e la tavoletta non ci sta, perché magari il tavolo è occupato dalle altre persone che stanno giocando a carte o mangiando. E mi ricordo di un nostro allievo che si prendeva la sua tavoletta e se la portava sulla branda, era proprio al limite del soffitto, e lì se la metteva sotto il materasso e quando doveva disegnare se la tirava fuori e finché la luce c'era la lasciavano, poteva disegnare, ma è una cosa assurda. e noi speriamo appunto che piano piano ci siano dei miglioramenti anche sotto questo punto di vista, ringraziando voi che svolgete quest'opera meritoria all'interno del carcere e sperando di tornare a parlarne quanto prima. Grazie allora al professor Paolo Pozzobono e alla professoressa Nadia Moschini, docenti anche in carcere a Treviso. Grazie per la presenza. Grazie a lei. Grazie a voi. Grazie di Daici Regia, a voi per l'ascolto. Appuntamento con il mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.